Venite fedeli, inizia la zanzara. Fedeli, accorrete, Barisoni, molla il microfono a Cruciani. Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. È un miserabile, è uno schifoso, capito? Anna Frank, chi è sta cazzo d'Anna Frank? Ha fatto un diario, hanno fatto un film, ma chi è? Ma una deve conoscere per forza, è l'ebrea, l'ebrea. Sei bruciato, sei un merda di Parenzo, siete due schifosi insieme, sei una merda, ricorda, ma siete una merda tutte e due, non solo lui, perché tu Cruciani metti in bocca le parole alla gente, lui ti porto in tribunale, ti porto via tutto, portami via a me qualche cosa, vieni qua. Me lo porta via il camion, Parenzo, mica è mio, un cretino, un becille, subito! Ma i camionisti sono bravi! Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto bravo! Oh, senti, è il camion! Come fa, trombe, come fa? Ma senti, ma perché continua ad tenere questo coglione di Parenzo che è una cosa raccapricciante? Non si può sentire, fastidioso, fastidiosissimo, è una cosa, è urtevole. Io capisco che buca il video, mi serve, anzi buca la radio, perché mi serve per fare, per devastare. Guarda, veramente sei raccapricciante, guarda, sei una cosa scandalosa, scandalosa, scandalosa. Parenzo, governami. Naturalmente. Tanchero, Buscetta, ti ho sentito. Ciao, Parenzo, Buscetta dei poveri, non mi riconosci. Ragazzi, io non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Sono arrivate. Neanch'io. No, ma neanch'io non ne posso uguale. Più per davvero. Non ne posso capricciante. Più. Ma cosa è raccapricciante? Cosa è la situazione, il quadro che dipingi di questo paese è raccapricciante. Quella gente che chiama, lo dico alla maggioranza silenziosa che mi ascolta, mi abbraccia, mi stringe, che costituisce il 90% di questo paese, cioè la parte migliore, sì, quella sì. Che lavora, che produce, che ha delle fidanzate regolari, che alle volte, se per caso mette le corna alla moglie o alla fidanzata, lo fa non strombazzandolo di qua e di là, ma in silenzio, perché sa che comunque commette una cosa, bravo, nell'intimità, perché noi facciamo delle porcherie ma non veniamo a raccontarlo. Ecco, questa parte di paese, che è la maggioranza, è indignata del quadro schifoso che ogni giorno dipingi, dipingi dell'Italia, un quadro che a sentir te è popolato da A, sono tre, poi mi taccio, A, B e C, A, nazisti, non più fascisti ormai, quelli sono già dimenticati, quelli ormai non chiamano più, ora c'è un salto di qualità, ora chiamano i nazisti, capito? I nazisti, ho iniziato questa trasmissione con le telefonate dei fascisti, ora c'è un salto di qualità, nazisti, punto A. Primo, poi mi taccio, giuro, prometto, punto A. Poi inizialmente si parlava di pornografia semplicemente. Ora siamo allo squirting e alle sue evoluzioni. Una volta all'inizio si trattava semplicemente di descrivere come uno tradiva la moglie. Va bene, e già lì mi scandalizzavo. Siamo d'accordo, benissimo. C'è stata un'evoluzione, un salto di qualità, diremmo, no? Squirting e i suoi derivati oggi, d'accordo? Quindi siamo nazisti, prima erano fascisti, oggi... Ecco, d'accordo? oggi siamo alle evoluzioni sessuali il punto C, il più grave di tutti, quello che descrive questo e distrugge le imprese, questo che mi interessa molto, che distrugge le istituzioni, distrugge il paese, distrugge gli UFO. Ora ci sono gli UFO anche. Ora gli UFO e i rettiliani. Una cosa grave e le scie chimiche e non solo. E ci sono i microchip, perché abbiamo sentito anche i microchip e gli UFO ieri, abbiamo sentito gli UFO. Stai distruggendo questo paese. UFO, nazisti e evoluzioni dello squirting. Questo è quello che tu dipingi ogni giorno. Una porcheria inaudita. Ragazzi, purtroppo il paese però è così. Il paese è così, ma sempre meglio di quello che accade negli Stati Uniti, dove un signore si sveglia la mattina e dice: 30 anni fa mi hai molestato. Succede oggi addirittura a Dustin Hoffman, dopo quello che è successo negli Stati Uniti, dopo oggi, quello che è successo al signor Kevin Spacey nei giorni scorsi. Adesso Dustin Hoffman addirittura accusato, ripeto, di una cosa del 1985, si è dovuto scusare. Togliamo i premi? Cosa facciamo? Quello che ha vinto gli Oscar o non so che altro? Siete patetici, siete ridicoli. Basta svegliarsi un giorno per dire: sono stato molestato, mi ha molestato, per distruggere immagini, carriere. Allora bisogna girare ormai con una sorta di papiello in mano, caro Parenzo, ce l'ho qua davanti. Autocertificazione in caso di scopata occasionale. Bisognerebbe girare con una specie di papiello così. Ma non è la così. Sottoscritta ABC, che ne so, un nome qualsiasi di donna, che tu fai firmare questa cosa quando esce qualcuno, dovresti far firmare una donna. Si chiama liberatoria. Esatto, la sottoscritta bianca, quello che è. Nata, nazionalità, provincia, nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e fisiche, dichiara di darla. Parentesi, vagina al signor Cruciani, al signor Parenzo. No, signor Parenzo, non ha bisogno di liberatorio. A titolo gratuito, come vista e piaciuta. A titolo gratuito, come vista e piaciuta. Bella formula. Accordo con la presente scrittura si rinuncia a denunce per stupro, reclami per merce non corrispondente e quant'altro non contemplato dal vista e piaciuta. Luogo e data, la cedente, la signorina. Mette qua la bella firma, il ricevente metti qua la bella firma. Così non ci rompete i coglioni. Giriamo tutti con questo papiello in mano, perché qui ormai potrebbe arrivare il vento dell'America. È già arrivato a sentire, per esempio, a vedere la trasmissione, chiamasi Le Iene, e ci sono attrici che si svegliano improvvisamente. Quello ha tirato fuori l'uccello, quell'altro mi ha messo le mani sul culo, quell'altra fa. Siete patetiche, o denunciate subito o non rompete i coglioni, chiaro? Una lavata, un'asciugata, la parvinga più brava. Questa era Feltri sul cunnilingus. Ma abbiamo il Corona strepitoso di ieri? Abbiamo il signor Corona, il signor Mauro Corona di ieri? Sì o no? Questa è la domanda che rivolgo a coloro che sono al di là del vetro, caro Parenzo, e che tu non conosci ancora le potenzialità di chi è al di là del vetro. Cosa ti hanno preparato? Quali scherzetti? Anche oggi, primo novembre, e siamo qui sul pezzo, in battaglia, in trincea, ti hanno preparato. Corona ieri strepitoso su donne, sesso e quant'altro. Corona, le donne dovrebbero darla di più, dice Valentina Nappi, tu che dici? Ma io sono d'accordo, è che siamo un popolo di bigotti. Guardi, io sono andato in Groenlandia in spedizione 2 mesi. Lì l'amore, il gesto, diciamo, fisico dell'amore, è come una dolcezza, è come un gioco. Quindi gli eschimesi di Inuit e Tunumut ti offrono la moglie, la figlia, la fidanzata, la sorella. Ecco, noi siamo l'età del bronzo di queste cose. Comunque è sempre stato una merce di scambio persino dallo Jux prima. No, guardi che da lì era un grandissimo pittore. Picasso erano geni inarrivabili, come uomini Picasso pretendeva ogni mattina una donna che gli facesse da scintilletto e la calpestava, cioè l'arte o la scrittura. Picasso è vero, ma non è che se uno scrive. Non mischiamo l'arte con la personalità. Cioè, a tu vorresti. Mi piace il culo, a uno gli piace le caviglie, l'altro le unghie. A te piace il culo. Vorrei la parità di espressione. Invece che stare lì a dirle a una donna: Sara, io e lei abbiamo affinità culturali agli occhi come i fiori di lino, e pagarli la pizza 8 mesi per fare quello che posso fare subito, diciamo andiamo a letto, sì, poi ti pago pizza 8 mesi o tu la paghi a me. Però sesso subito. Abbiamo una vita solo velocissima e devo perdere tempo 8 mesi. quasi, allora, meglio, qua, quasi meglio una puttana, uno dice, no? Ma sì, stavo per dirlo. Guarda, Cruciani, quella che mi hanno detto ti amo mi ha reso la vita un inferno. Mm. Ecco, meglio andare a troie. Parla la signora Rosina, sempre con il forcone in mano, sempre col forcone in mano. Questa volta in collegamento non so da dove, dice tra 3 anni saranno fuori e mi sgozzeranno. Hanno dato 7 anni no, e 4 mesi ai marocchini, senti. Me l'hanno promesso che se li denunciavo, chiamavo i carabinieri, li denunciavo, sarebbero tornati indietro a sgozzarmi. Dunque adesso cosa sono? 7 anni e 3 e 4 mesi? Sono niente, un anno e mezzo l'hanno già fatto e fra 3 anni neanche sono fuori. Allora, veniamo alla questione di Lagos. Speriamo, veniamo alla questione di Lagos, sì, caro Lagos, Parenzo. Pazzesco, Lagos. Incredibile. Allora, i 5 Stelle, ogni giorno mi devo pentire della mia scelta, ripeto, in Sicilia voterei, continuerei ancora, nonostante tutto, nonostante quello degli incendi. Cosa a devono votare, fare? A di votare più? Five cosa stars. Devono fare di ora, più? Ora, la cosa di Lagos non è nuova, è dei giorni scorsi, in realtà, no? Questa frase detta da Grillo, in realtà era stata già detta da Di Battista, su Lagos come una delle città migliori dove vivere. Amici miei, Lagos. Prima sentiamo Lagos, prima sentiamo la frase. La più grande, una delle più grandi città al mondo, che si chiama Lagos, è la capitale della Nigeria, 5 milioni di abitanti, in centro dell'Africa, è considerata una delle capitali dove si vive meglio al mondo. Se guardate le fotografie, è pazzesca, sembra Las Vegas, verde, spiagge, palme. Amico mio, amico mio, primo Grillo. Lagos non è la capitale della Nigeria, primo, perché non è Lagos. Secondo, non fa 5 milioni di abitanti, bensì 21 milioni, sì. 21 milioni, secondo quanto dicono loro gli abitanti stessi. Terzo, la qualità della vita in una città dove la gente gira con la scorta, perché hanno paura di essere sequestrati, ci sono violenze. È una città meravigliosa, bellissima. La gente c'è le palme, ci sono le palme. Ma ti cadono i fili, la gente ti abbraccia. Ti abbraccia perché ti vuole stuprare, d'accordo, però intanto ti abbraccia. E non c'è internet, la rete, ma c'è una rete sociale in cui se tu hai una villa devi vivere blindato dentro. Ma è meraviglioso perché riscopri la famiglia. E devi girare e ti abbracciano pieno di coltelli quando ti vengono incontro e ti portano via tutto, ma perché ti amano. E Lagos è meraviglioso. E 5 Stelle è così. Rendere l'Italia, Catania, renderla come Lagos. Questo è il modello. Dai, porca puttana. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Hi, I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best radio program ever. Bye! Giuseppe, David, grandissimi, voi non avete idea di fin dove è arrivato. Io sono in Tanzania, la mattina quando mi sveglio, morning meeting con i miei neger, David sta andando trans, siamo al top. Io ti denuncio. Allora, volevo fare sentire una vocina del signor Don Biancalani, sai, quello di Pistoia che è stato bravissimo, quello che dico portato, aggredito, ma insomma è stato offeso, quello che ha portato i migranti rifugiati in piscina. E per questo è stato vilipeso, distrutto, preso in giro, attaccato da Forza Nuova, ma non c'è niente di nuovo, c'è solo porcheria, non c'è. Allora, questo signore che si chiama Don Biancalani, che è un prete, dice però secondo me una castroneria pazzesca. prete della Repubblica. Non è che non no? può dire questo cazzate, qua, può dire anche qua. Cazzate un prete. No, non è che può dire, cioè sì, Don Biancalani certo. tutto quello che dice va bene, no. No, tutto senti. No, direi il 99.9% rispetto alla media delle persone. L'immigrazione che viviamo in questi anni è un'immigrazione di bambini, di adolescenti, i ragazzi che io ne ho 50, in gran parte presi dalla strada, quindi a costo zero per la società, non supera i 20 anni. Ma le vogliamo raccontare questo? Vogliamo raccontare il sacrificio di questi ragazzi? Allora, che l'immigrazione sia di bambini e adolescenti è una panzana colossale. Non è l'immigrazione. Molti non è minori non accompagnati. Ma minori non accompagnati. Ma non è così. Minori dai, non su, accompagnati. Ma non è così. Minori non accompagnati. Ma non è così. Minori ma non accompagnati per i quali ma stiamo costruendo, peraltro, ne parleremo, un grande progetto, una casa di prima accoglienza a Lampedusa. Io no, nulla, alcuni cioè. Amiche e amici molto, vabbè, molto non bravi. Non è vero. L'immigrazione non è di. Non è di bambini, non è sì, di bambini, no, non cioè, è di bambini. Minori non accompagnati, ma non è soprattutto, così, tantissimi non è così, sono minori così. Non accompagnati. Allora, a proposito di Berlusconi, le accuse di mafia, eccetera. Senti, ma no, ecco, senti Fico, roba qua, senti lo Fico. Lo avete massacrato per no, anni. No, ma senti per Fico, 5 storia. Stelle, 5 stars, senti. Io penso che un personaggio come Berlusconi parli da solo. Io credo che nel nostro paese ci sia un incubo e quest'incubo è Silvio Berlusconi. Ha finanziato la mafia, deve andare in galera. Fico, senti, ti prego. Sì, io dico che Berlusconi è stata una persona che ha ospitato summit mafiosi nella sua villa di Arcore. È una persona dove il suo braccio destro dell'Utri è condannato a 7 anni per mafia. È una persona che dal 74 al 94 ha stretto patti con la mafia finanziando la mafia. E allora queste persone devono essere cacciate dal nostro paese e devono andare al massimo in galera. Cacciate dal paese al massimo in galera, cioè sarebbe il contrario, sì. Vabbè, no? Come minimo in galera e poi casomai cacciate. Siamo al cabaret, è un'idea come un'altra. Sallusti contro Travaglio, sempre su questo tema, se vi interessa, a me non mi frega un cazzo, però. Non è detto che sia reato pagare Cosa non Nostra. Va. I non giudici hanno stabilito che la pagava regolarmente, e allora se non è reato, ha fatto un reato, ma l'hai letta la sentenza? Ma è la sentenza che ha portato il braccio destro di Berlusconi in galera, si chiama Marcello Dell'Utri. Tu magari lo cerchi a casa e non lo trovi perché sta in galera per vergognosa. Mafia. L'inventore di Forza Italia. È una sentenza vergognosa. Dell'Utri è un galantuomo. Vabbè, perché non ti piace? Dell'Utri è un galantuomo. Benissimo, un galantuomo. Agli amici tuoi sono galantuomini anche sono dei frodatori fiscali pregiudicati, dei mafiosi pregiudicati, dei corruttori di giudici pregiudicati. Abbiamo un concetto diverso di galantomismo, però voglio dire, possono coesistere. Beh, tu sei amico, tu ritenevi un galantuomo in groia. Ritenevi un galantuomo in groia. Ah, certo. In groia ritenevi un galantuomo. Sì, in groia è un galantuomo. Infatti, è una roba che... un magistrato incensurato. Ma di che parliamo? Mentre i tuoi sono tutti in galera. Giovanni da Campobasso, vai, apriamo. Giovanni da Campobasso, mentre sento rumori, Parenzo che apre chissà che cosa. Bibite, cose assurde. No, bibite no, purtroppo, dell'acqua. Sto Giovanni mangiando da Campobasso, una dai. Caramella all'arancia. Sì, ma potresti mangiare dopo, per favore, grazie. Dai. Giovanni, dimmi. Parla quel demente lì, quel comunista che vuole addrizzare il mondo, che vuole vietare di andare a puttare. Dico, ma che te ne frega a te? Ce l'ha forse con me, a te la gallina fa l'uovo e a te ti fa male il culo? Sì. Io voglio andare a puttane, ci vado sabato sera, ci vado anche stasera, ci vado anche domani sera. Ma lei ha una moglie, ha una fidanzata? Ha una moglie, una fidanzata? Ma che te ne frega a te? Io posso avere 100 fidanzate e voglio andare a puttane. No, che cazzo solo, me ne frega a te? Solo per... Intanto interloquiamo con piacere. Da oggi inauguriamo una nuova fase. Non mi arrabbio più. Interloquiamo. Io sono Giovanni il fascista, non ti dimenticare. Sì, giorno. Per carità, ma va benissimo. Chiamano i nazisti ormai qui, quindi lei è il benvenuto, no, diciamo, a questo punto. Tu A proposito, tu te la dovresti prendere con intanto, i nazisti. Noi come siamo fascisti, è un'altra cosa. Sì, no, ma è chiaro, abbiamo fatto la distinzione in questi giorni. Te la devi prendere con i nazisti. Sì. Noi fascisti siamo un'altra cosa. Un'altra cosa, certo. Voi siete dei moderati a confronto, non c'è un bel dubbio. Ma è stato rovinato da chi? Galeazzo Ciano, certamente quella che adesso siamo alla radio in bianco e nero, diciamo. Galeazzo Ciano. Sì, Giovanni, ieri sera dove sei stato? Sì. No, che torniamo all'attualità. Sono stato a puttane. Ma perché? Perché dove? Perché mi piace andare a puttane. Ma dove? Ci fa piacere che ce l'abbia comunicato. Guardi, mi ha cambiato la giornata. Una bellissima argentina di 30 anni. Ma lei ha una figlia, una fidanzata? Ma lei perché è costretto a pagare? Limono anche la figa, quello che fa lei, quello che fa lei, non ce ne frega niente, ma non ce ne frega niente adesso di questa roba qua. Quello che fa lei, intanto questo è tutto da dimostrare, essendo pagata è costretta pure a figgere con un personaggio come lei, che è evidente che non è in grado neanche di fare eccitare una scimmia in uno zoo. Però non è che gliela danno, come dice caro, come dice Carlos, non ho capito. Giovanni, tutto il mondo è evidente che gli dà una cosa, Giovanni. Do a lei, voglio interloquire con questo laureato alla normale di Pisa. Professore, mi faccia capire solo una cosa: lei ha una vita felice a casa, di relazione, ha una fidanzata, una moglie, qualche affetto? Grazie per l'eloquio che lei, come dire, conferma. Non sono cazzi che ti riguardano. Benissimo. Lei è fissato. Mi feci fare un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Efebal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Buonasera a voi da Diego Fusano. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Buonasera a tutti, siamo qui dalla trattoria Caffè Primizia in Sardi di Torino. E appena abbiamo detto come Macron, una bella fanciulla si è palesata davanti a noi, che è, com'è che ti chiami? Roberta. Mentre ascoltavamo Vibratore di Ruggero dei Timidi. Ascoltatrice della Zanzara, Roberta. Ma cos'è che ti piace di più della Zanzara, Roberta? Crucciani. E Parenzo? Lo lasciamo da parte? Ma no, anche Parenzo. Vogliamo dare un messaggio a Parenzo? Assumi la ROM. Vibratore, vibra, non ti fermare. Assumi la ROM. Vibratore, vibra, non ti fermare. Quel libro. Poche pile nel cassetto, troppi sogni da realizzare. Libro. Se la noia galoppa ti viene incontro la tecnologia. Come un muro. Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fa l'800240024. Oppure se volete mandare un faccio i miei messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Buonasera a voi da Diego Fusaro. Cucciani, noi ti amiamo dal profondo del cuore. Ti amiamo. Ti amiamo tantissimo, tu sei l'uomo della mia vita, Crociani. Fantastica. È la fine di una stagione politica. È la fine di una stagione politica. Come dice Parenzo, è la fine di una stagione politica e noi ti amiamo. L'alcol tira brutti scherzi, caro molto David. Brutti, l'alcol brutti, tira molto brutti molto scherzi. Molto. Comunque, e anche Ruggero dei Timidi tira brutti scherzi, perché se tu ascolti ovviamente le melodie, la melodia della sua canzone. Non me lo toccare. No, ma per me è un gigante. È il filosofo della contemporaneità. Sì, questo il posso menestrello, essere. È il nostro Sigmund Bauman, sostanzialmente. No, il menestrello dei nostri vizi, il menestrello delle nostre perversioni. Era un complimento che volevo fare, cioè ascolti le sue melodie e pensi che siano canzoni per bambini, poi dopo appunto vibra non ti fermare e tu fai, che sai, lì a un certo punto vabbè, e andiamo avanti. Allora, vorrei ricapitolare quello che ha detto Mauro Corona ieri sera ai nostri microfoni. Infatti. Il caso Weinstein: se uno ti chiede di dargliela, se hai etica gli dici no e vai a lavare i pavimenti. Asia Argento aveva un calo di visibilità, ora se ne parla. Prima cosa importante, primo concetto chiave. Che non condivido per nulla. Beh, io invece condivido al 100%. Per quello che riguarda invece la sua vita sessuale, perché ha parlato apertamente della sua vita sessuale. Sono quasi impotente, mi serve Viagra, anzi io gli ho offerto il Viagra naturale che ogni tanto che ricevo. Gentile. Una che volta gentile. A settimana trombo, ho un giro di vecchiette, quello l'ho trovato straordinario, ho un giro di vecchiette che mi soddisfano. Soprattutto perché non restano incinte, non si innamorano. Te lo bruciano, siccome devono dare le ultime cartucce, devono sparare le ultime cartucce, dice che te lo bruciano. Parole sue, non ho detto io, scrittore affermato, eccetera. Le donne dovrebbero darla subito, altrimenti meglio andare a troie. Ha detto proprio così, la parola troie. Poi ha confessato di essere malato del culo, cioè di essere uno molto attento al di dietro delle persone. Non è la prima volta, naturalmente, soprattutto non è l'unico, no? Non è l'unico, sono un primitivo. Mi piace farlo con lei girata di spalle. Ecco pure. Così non la vedo. Così non la vedo. Però voglio parlarvi di una cosa seria. Leggo oggi su qualche giornale la storia di un signore che si chiama Birolo, adesso non so bene la pronuncia. È un tabaccaio, storia di qualche anno fa. Tabaccaio che sparò a un ladro, lo uccise. Ha passato 5 anni di inferno, caro David. 5 anni! 5 fottutissimi anni, 5 altro che Dustin Hoffman, queste denunce qua. Qui parliamo di cose più concrete, di cose che possiamo toccare con mano, di cose che riguardano il nostro paese, di cose che riguardano la gente normale, non i vips. Sparò al ladro assolto, ma chiudo per paura. Farà il contadino adesso, non posso difendermi dai criminali e soprattutto dalla legge. La giustizia dovrebbe essere dalla parte delle vittime, non far passare 5 anni di calvario a una persona. Non ho scelto io di fare la parte del delinquente e finire nelle aule di giustizia. Ed è finito anche senza soldi questo qua. 5 anni per avere sparato a un ladro dentro il suo negozio, per essersi difeso. 5 anni di inferno, assolto, costretto a cambiare lavoro. Vergogna. Vergognatevi anche tu, vergognatevi. Assolto. Vergognati, ma dopo 5 anni assolto. Ci vogliono tempi più rapidi per queste cose. Ci vogliono tempi più rapidi. È evidente. Dai, su, dai. Cala. Questo è il povero dell'Utri. Allora, è stato espulso un imam a Lecco, come sai. Ma era in Italia grazie alla CGIL. Grazie al sindacato aveva ottenuto il permesso di soggiorno, grazie al patronato della CGIL. CGIL mica è la polizia, ragazzi, che deve verificare miei, il curricula delle persone, scusa. Dai. Ah, la Brambilla c'è anche, la Brambilla ieri ospite dalla Berlinguer. Ah, risentiamoci questa Brambilla. Volete fare un'analisi, anzi volete fare un overdose di animalismo? Volete fare una puntura, una spada, come si diceva un tempo con l'eroina, una spada di animalismo puro? Volete farvi una dose di veganesimo o di quello che volete? E sentiamo la Brambilla, avanti. La Brambilla che parla dei suoi daini, la Brambilla che parla che bisogna andare verso una scelta veg, che l'industria della carne deve pensare a una riconversione. Io mi sono quasi rotto il cazzo di questi argomenti, ma facciamoci una bella spada, come si diceva un tempo, no? Una bella overdose, una bella dose invece che di eroina, che non bisogna assolutamente farsi, di Brambilla. Una pera di Brambilla. Berlusconi non aveva bisogno di essere convinto, perché ama gli animali, la sua casa di Arcore è piena di animali, ci sono quasi tanti cani come in casa mia, poi ci sono daini, ci sono cavalli, forse è un aspetto del presidente Berlusconi che non era molto noto. Ma non ne sentivamo il bisogno, francamente, di conoscere questo aspetto dei daini, dei cavalli e dei cani. Daini, cavalli e cani, roba da super ricchi. Ovviamente uno deve avere una casa molto grande per avere dei daini e dei cavalli. Beh, dei daini siamo d'accordo. Sì, ma non è amore per gli animali avere dei daini a casa, dei cavalli là. I cavalli. Vabbè, ma questo non mi sembra non una cosa. Bisogna andare verso una scelta vega, ancora la Brambilla, per forza. Dai, no, la riconversione, voglio sentire la riconversione, dai, che è più simpatico. Quindi io credo che se i dati di consumo della carne sono in netto calo e continuano a calare anno dopo anno, certamente occorre che l'industria della carne, la filiera della carne, ne prenda atto e pensi a una riconversione che va di pari passo con la mutata sensibilità degli italiani, perché questi sono cambiamenti. Allora, primo, non c'è nessuna sensibilità che è mutata. Secondo, ricordo la signora Brambilla che è rappresentante di un partito i cui elettori sono tutti in gran parte sono anche produttori di carne, mangiatori di carne. Ecco, dunque, peraltro, non bravo, mi pare sì. una cosa francamente molto. Però, signor Berlusconi dovrebbe pensarci due volte prima di. C'è di più, no? c'è di più, amico mio, perché un'amica molto attenta, lei sicuramente molto animalista, una ragazza straordinaria, mi scrive: vai a vedere cosa ha fatto la Brambilla al canile di Lecco. E effettivamente c'è questa notizia che mi era sfuggita, ma era sfuggita anche a te, quindi grazie a questa persona, a questa ragazza di cui non dirò il nome, che me lo ha segnalato. Non a norma, chiuso il canile della Brambilla a Lecco. Vabbè, magari lei non ha responsabilità in questo, che cazzo c'è? Beh, intanto però no, la Repubblica a dirlo, non a norma, chiuso il canile della Brambilla. Ma chi se ne frega, ragazzi, dai, questo chi se ne frega. Gabriele da Verona, dai. Vabbè. Gabriele, vai. Sì, ciao. Dimmi. Allora, io ho fatto una foto su Instagram. Hai fatto una foto su Instagram? Vabbè, ce ne faremo una ragione. Allora? No, per la questione del caso Weinstein allora? Di Argento, dove, diciamo, c'è una ragazza, abbiamo scritto opportunità su una mano e stupro nell'altra, unite, perché appunto, secondo me, comunque... c'è un filo conduttore, cioè, insomma, scusa Gabriele, a noi che cazzo ce ne frega se tu hai fatto una foto su Instagram, scusami. Volevo, a noi cosa cazzo ce ne frega se tu hai fatto una foto su Instagram, cioè tu ci vieni ci chiami per dire ho fatto una foto su Instagram per fotografare, per dipingere, per raffigurare il caso Weinstein, ma a noi cosa cazzo ce ne frega, spiegami. Beh, come un po' Toscani. Ma che dici, ma cosa dici Toscani? Tu hai chiamato per dire che tu fai delle foto su Instagram, ma a noi cosa ce ne frega? Ma perché dovremmo darti retta? Perché dovremmo sentire queste cose che dici? Qual è la cosa straordinaria? Qual è la tua opinione? Non c'è, non esiste. Qual è la cosa che... straordinaria nulla. E allora perché ci racconti questa minchiata? Scusa, non ho capito. Che hai fatto una foto, sai quanta gente lavora su Instagram? Sai quanta gente c'è sul web che si diverte sul caso Weinstein e Asia Argento? Perché te chiami dicendo ho fatto una foto su Asia Argento e Weinstein? Scusa, perché? Perché ascolto da tempo te. Ma tu fatto? Hai qualcosa che ti sei fatto di qualche cosa? Sembri fatto di qualche sostanza, no? Sì, toglierei sempre. Albertino da Roma, ciao. Vai via. No. Albertino, vai. No, fermo. Si passa da un eccesso all'altro. Fermo. Eccolo qui un altro. Dimmi. Che ha preso un altro tipo di droga, invece, questo. Dimmi, Albertino, dimmi. No, fermo. Non sentiamo niente, Albertino. Da dove chiami? Fermo. Da casa mia. No, non si sente niente, Albertino. Per fortuna, Albertino. No, devi stare tranquillo. Dimmi, Albertino, vai. Ecco, io voglio, vorrei dire, no? Quell'imprenditore che ha detto che gli italiani sono scarsa fatica, ha preso 18 negri, no? Sì. Allora, questo, ma già mi immagino che faccia, che c'ha i capelli davanti alla fronte. 22, scusa Albertino, poi togliere il viva voce, l'auricolare, ti prego, io non la voglio più ripetere perché sennò vi prendo a bastonate. Ha preso tutti questi negri, lo sai perché? Perché ha preso tutti questi negri? Lo stesso motivo per prete che ha portato i negri in piscina. Sentiamo il professor Albertino che cosa dice sul motivo per cui quell'imprenditore dice di voler assumere solamente gente di nero. Mica sono scemo io che mi voglio far quelle là. Chi ha studiato, Albertino, mi hai rotto le scatole. Andrea d'Ancona, vai Andrea. Sì, ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Io volevo intervenire, ho sentito prima l'intervista, credo a Beppe Grillo, su Legos, sul fatto che si viva molto bene, che è un esempio da prendere. Allora? Io ho vissuto là 6-7 mesi per lavoro. E veramente, se posso permettermi, un posto di merda. Io non ho capito il motivo per cui sia uscito con una roba del genere. È un comico straordinario. È un comico. Si sta veramente male. Sta male la popolazione, sta male chi ci lavora. Non ti puoi muovere. Ma non lo so perché ha parlato di Lagos come una città straordinaria. Una cosa ridicola. Non vedo il collegamento con noi, soprattutto in un periodo politico del genere. Riuscire a dire una cosa del genere. Volevo capire da dove era venuta fuori la cosa, perché mi sono collegato giusto giusto in quel momento. Non lo so, è una cosa detta dove... qualche giorno fa in un comizio a Catania. Giri scortato, ho visto sparare a della gente, mangiano pipistrelli, mangiano qualsiasi cosa si muova, stanno male, donne stuprate. Ora, non era il periodo di Boko Haram, ci sono stato prima, ma credo che le cose siano peggiorate. Sì, sì, ma... Lagos che Onne. Sì. Sì, non è un modello di... Fermola, ciao, ciao Andrea, ciao, ciao. Ciao, ciao. Boldrini, Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, Boldrini, ed è morta. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. A te Lombardia, ci frequentavamo ed eravamo amici intimi dietro le quinte. Ciao Parento, sembri un panda, ti amo. Allora, porca puttana, le regole del Fight Club sono due. 1. Non telefonare con il viva voce o con gli auricolari. 2. Non telefonare con il viva voce o con gli auricolari. Ma come cazzo è possibile che siano ancora tutti a chiamare con il viva voce e con gli auricolari? Basta, basta, basta. Vito di lavoro Mosca. Vodka, comunismo e puttane. Qua siamo veramente al top, ragazzi. Parenzo, buonasera, è la cancelleria del Tribunale Civile. Volevamo solo avvisarla che abbiamo provveduto ad acquistare il magazzino per archiviare l'enorme quantità di faldoni relativi alle denunzie che lei presenta giornalmente contro gli spettatori della Zanzara. Grazie. Città no, eh? Qua città no! La città, eh? Tiè! Tiè! Che hai gambe? Tiè! Sue gambe! Pura gola negra, vai! Pura gola negra! Stai dicendo che faccio il lavoro con la figlia del destino, ti amo! 35 anni da Borotalco, caro Parenzo. Sì, sì, sì, da sì. Borotalco, questo è il pezzo più straordinario di Borotalco, diciamo la verità, quando Mario Brega a un certo punto, andando a pizzicare quello che doveva sposarsi con la figlia, sì, sì. Che è poi Verdone naturalmente, lo trova là a casa di Manuel Fantoni e comincia a picchiarlo con la cinghia e dice pure con le negre, pure con le negre. No, qua città no! Tiè! Tiè! No, che hai gambe! Tiè! Sue gambe! Pura gola negra, vai! Pura gola negra! Aveva trovato lì una di colore. Adesso non si potrebbe più dire nei film pure con le negre. Oh, vedi come ma passa. Lì si capisce il gusto del paradosso invece. Ho capito, ma non si potrebbe più dire una cosa di questo tipo oggi. Vero, no. Massimiliano Avellino, vai Massimiliano, vai. Oh, pronto, ciao Giuseppe, non c'ho né rugolare né niente, così ti evito le solite rotture. Se no, veramente, ragazzi, cioè, diventa una cosa ripetitiva. Ogni volta sto mamma mia, guarda. Comunque, ci vado dritto per dritto. Uno, volevo dire una cosa, su Weinstein, pure sì. Se riprende il caso, per me tutto si chiama prostituzione. Ormai non è più, ormai non è nemmeno più il caso Weinstein, perché ci rompono i coglioni ogni giorno con Dustin Hoffman oggi e l'altro giorno Kevin Spacey. Ma gente... lui stesso però ha chiesto ma scusa. Ma sì, ma ragazzi, dire, è tutta un'ipocrisia, è tutta un'ipocrisia 30 anni dopo, dai, su, 30 anni sì, dopo, io poi, dai. Io volevo rivendicare... da buon sociologo un termine sociologo, che riassume sì. Tutto prostituzione lavorativa prostituzione beh, lavorativa non lo so, non tutti i casi sono simili naturalmente non no, tutti, no, non tutti parlando sono... di se quello là caso... se quello là Kevin Spacey a 24 anni quando aveva andato con uno di 14 ha fatto malissimo ad direi, andare con uno di 14 non sviliamo sempre tutto bravo meno male la chiamiamo sì, ma infatti stiamo parlando dei casi diciamo di produttori infatti ogni caso è singolo e va sì, analizzato però per essere tale se tu attrice o attore che vieni molestato barra come dire no vieni insidiato da un produttore ci vai e vent'anni dopo ottieni magari delle parti dei vantaggi certo. E per paura di essere escluso dall'ambiente non denunci sono cazzi tuoi è prostituzione come dice Massimiliano se ottieni qualche cosa è prostituzione lavorativa è inutile che ce la stiamo a cantare è come una raccomandazione per un lavoro se una donna o viceversa vanno là e dicono io te la do, ma tu in cambio mi metti a lavorare nell'ospedale oppure in altri luoghi di lavoro. Io la chiamerei prostituzione. soluzione. Do a te, Gabriella, a da Roma, Gabriella da Roma, vai. Qua. Io dicevo, volevo dire al signor Parenzo, che sì, il solito viscido, che praticamente... Buonasera, buonasera intanto, grazie per aver chiamato, grazie. Con la Sergento la difende perché sì, è figlia, certo, di un... regista, allora la difende. No, Sergento mica non è che figlia di un regista, la difendo a prescindere per quello che ha detto. Cioè, Gabriella, difendo dagli attacci che ha ricevuto, soprattutto perché mi è sembrato indegno il dibattito che si è scattenato nei suoi confronti. Ho capito, rispondo alla nonnina, alla gentile nonnina. Perché la nonnina? Scusa, alla nonnina, alla signora anziana che ha chiamato. Rispondo con l'educazione. Perché lei la difende perché dice che quella non ha ottenuto che cosa? Ha ottenuto come gli altri. Dal produttore. In oggetto, cara nonnina, cara nonnina, cara la mia nonnina. Posso parlare? Parla, è stata penetrata, ma la sua è stata una cosa diversa, per cui ancora peggio. Gabriella, scusa. È una forma di compiacimento quello che ha detto. Ecco che cosa non mi va bene delle sue discorsi. Gabriella, scusami, quanti anni hai tu, cara Gabriella? 56, benissimo. Vabbè. Come consideri Parenzo, il signor Parenzo? Ma no... Vabbè, lasciamo stare. Come lasciamo stare? Probabilmente andrei a far parte dei fascicoli del tribunale. Addirittura, cioè, Gabriella cerca di fare il verso a Garbi quando comincia a fare vuol fare il buffone. Com'è ma che fa? Com'è che fa? Capra, non lo dico assolutamente. Dà soltanto fastidio. Com'è che fa, signora Capra, Gabriella? Scusi. Non lo dico mai io, però. Capra. Signora Gabriella, 56 anni, caldissima. La signora Gabriella è caldissima. È simpatica, caldissima. La signora Gabriella. Signora Gabriella, lei convive, che è sposata. Se le dica, mi è simpatica. È sposata. Allora, sono felicemente separata da una ventina d'anni. Sì, una ventina d'anni. Dopodiché, dopo qualche, diciamo, non avventura, ho avuto... due o tre relazioni. Dopodiché ho capito che non fa per lei, non fa per nessuno, cioè, lei si è messa da sola, certo, cioè tu dici che cosa faccio? No, dico, ovviamente si dice così, non l'ha voluta nessuno e quindi sta da sola, ma per carità. Ma io dico questo, che non mi ha voluta nessuno, non sono stata assolutamente super corteggiata. Scusi, signora Gabriella, dunque lei non vede un essere di maschile nudo da quanto tempo? Adesso gliela voglio mettere così, diciamo, sul piano. Diciamo dall'epoca di Adamo ed Eva. Io non vedo un essere maschile nudo, non lo so, probabilmente mi è anche capitato qualche cosa da vedere, un film, okay. No, un film, senso, live. Però per quello che mi riguarda, il rapporto ravvicinato... Tanto. Da quanto tempo è che non vede un uomo nudo? È chiaro, nudo. Zanzara, per è una domanda che mi ha fatto tempo fa la mia ginecologa, mi ha detto sì. Ha detto ma se ne frega, attività sessuale, dico niente. Il motivo? Mancanza di partner. Mancanza di materia prima. Questo è d'accordo, perché che cosa ha visto la sua ginecologa? Ma diciamo, ci deve parlare, aspetta, del suo ginecologo. No, è fangine, si stava parlando, non è per quello che ha visto. Si stava parlando, infatti. No, magari ha visto, ha fatto una visita ginecologica, dunque ha visto nelle sue viscere, diciamo, chiamiamole così. Non so cosa può aver visto. Ha visto magari, come si diceva un tempo si diceva che hai trovato, brava, che hai trovato delle ragnatele là. Avrà trovato delle piccole calcificazioni, come dire. No, nonnina, come si è buttata. Non mi è venuto in mente di chiederglielo, anzi mi è stata una domanda così, dico, boh, che vuol dire? Appunto, dico, ma come mai? Dunque, quanti anni è che lei ha 56 anni? Comunque è giovane, io conosco un sacco di gente 56 anni che ha una vita sessuale assolutamente... Beh, diciamo che sono diversi anni. Ma diciamo diversi possono essere due, tre. Cioè lei perché un uomo... Perché signora insopportabile, cioè, diciamocelo tranquillamente. Cioè lei è 5-6 anni che non vede un uomo nudo davanti a lei. Io ho trovato la faccia dei sensi. Ma è troppo presto, signora mia, 56 anni. È 50... Perché io non è che proprio non abbia niente da fare nella vita. Nulla. Lavoro, e chiama la radio, per forza, poi nulla. Ho 5 figli che sono grandi per conto loro. 5 figli. Non è che non abbia niente da fare, ma poi tanti interessi, diciamolo pure. Cioè a lei del sesso non gliene frega niente, questo è il punto fondamentale. Esatto, allora... Non sono mai stata una appassionata. Mi è piaciuto, ecco, mi è piaciuto il sesso quando stavo bene con una persona, mi piaceva, facevo volentieri. Ma chi se ne frega, io non riesco a capire la gente che si racconta così. Questo mi come è scusi, mistero, signora? Parenzo che si è introdotto, non sono riuscito a capire il finale del suo discorso. Non penso neanche quello che dice, perché non ho capito una cosa. Ci chiama una nonnina che non fa sesso, ma no, 56 anni, sue visite ginecologiche. Ma no, ho capito, ma che interesse ha questa roba? Che interesse ha? A me interessa. dovessi sapere, Gabriella, che ha 56 anni ed è giovane, è una ragazzina, io ne ho 51, 56, sono estremamente vicino a Gabriella anche come generazione, allora, solo 5 anni. Aiuta la signora nella sua... Non è questione di essere lei giovane, anche giovane come aspetto, comunque, come voce, un po' di meno. Per... Sì, ma perché non scopa? Il punto è questo, perché non scopa? Perché non mi chiedono? Ma non chiedono, ma anche se chiedessero lei direbbe di no lo stesso, Gabriella, questo è il punto. Allora, le fa paura l'uomo. Una persona recentemente gli ha detto: ah, tu Gabriella sembri tanto simpatica, cordiale, così, dice, però metti un muro. Ma io sto muro non me ne accorgo di metterlo, ma evidentemente lo metto. Evidentemente mette sto muro, questo è il problema del muro, capito? C'è il muro di Gabriella, c'è il muro come il muro, vabbè, di, muro di Berlino, c'è il muro di Gabriella, certo, capito? Adesso vediamo, ho visto il quotidiano La Repubblica che ha già ripreso la notizia. No, però voglio lanciare qui una grande cosa, Gabriella, se tu mi dai l'autorizzazione, cara Gabriella, e se vuoi naturalmente... tu se puoi essere considerata come, non dico una MILF, no, sì, una MILF, una vera e propria MILF, diciamo, no? Se non addirittura una, forse una cougar, non so bene. Non so se... cosa voglio dire quello che sta dicendo. Sì, lo so, sono cose un po' complesse del mondo contemporaneo. Però voglio dirti, Gabriella, se vuoi ti aiutiamo da questo punto di vista. A far sì. Beh, a trovare un maschio, questo è il punto. Cioè, allora, non sono. Non sto in mezzo a un deserto. Se volessi potrei mettere annunci, potrei fare in modo però, di però, posso andare in agenzie, potrei andare in agenzie, però se non lo faccio vuol dire che... Sì, però ti assicuro che la radio è un grande veicolo da questo punto di vista, cioè Parenzo è una grande... Sì, sì, ma no, per carità non mi interessa proprio questa cosa. Se volessi in qualche modo, allora, ripeto, non mi cercano, però se volessi in qualche modo, se mi offrissi probabilmente qualche catorcio lo troverei. Bah, qualche catorcio adesso, non è che devi trovare per forza qualche catorcio. Vabbè, ciao Gabriele, ciao, ti saluto. Ciao. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Là ci vuole la nerchie. Questa mi pare sempre altro filosofo. Sai che una volta quando sei a Pescara dovresti condurre insieme a Semproni, dovresti invitare lì il signor Semproni. Sarà fatto signor Semproni, la settimana prossima troviamo un giorno, ne organizziamo, signor Semproni. Ultimamente se ne è uscito qualche cosa il signor Semproni, se non sbaglio, non lo so, io non lo seguo, sai. Allora, abbiamo con noi un signore, lo citavo prima, caro Parenzo, che ha subito una vera e propria, non dico persecuzione da parte dello Stato, però certamente ha passato 5 anni d'inferno. 5 anni d'inferno. Perché dispiace. Cosa? Ti dispiacerà, eccetera, però 5 anni d'inferno per aver fatto una cosa molto semplice, reagito all'interno del suo locale, una tabaccheria, e ha ucciso un ladro, condannato in primo grado, assolto adesso, ha intenzione, da quello che leggo, di chiudere baracca e burattini. Signor Birolo, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Come buonasera, stai, Franco? Ti do del tuo, Franco. Benino, sì. Sto benino, diciamo, più sollevato rispetto al, questo è al primo grado, sì. Allora, io voglio capire una cosa. Come sono stati questi 5 anni? Perché hai perso dei soldi, sei stato condannato in primo grado, hai passato un vero e proprio calvario, diciamo la verità, perché non ti fidi più, dici che non ti fidi più della giustizia, non ti fidi più della... Ho sofferto io e la mia famiglia assieme, mi è costato una cifra, perché gli avvocati e i periti che seguono l'avvocato vanno pagati, giustamente. Sì. E quindi... Quanto hai speso in tutto, Franco? Questo... Di solito non lo dico per rispetto, diciamolo, dai. Non lo diciamo. Comunque, non lo diciamo, tanto, che te devo dire. Abbiamo speso tanto. Cioè, sopra, intorno ai 100.000 euro, si può dire? Cioè. No, un po' meno, ma comunque... Vabbè, per le tue finanze tanto, evidentemente, no? Cioè, esatto, sì, non sono... Ma è vero che hai deciso di chiudere o no? Sì, ho deciso di chiudere perché non voglio più correre il rischio di affrontare, diciamo, questa cosa. Tra l'altro può capitare ancora? Beh sì, certo, può capitare ancora, anche perché la persona che è stata uccisa aveva 3 complici che non sono mai identificati, diciamo, no? Questi signori. Uno l'ho trattenuto e l'ho consegnato io alle forze dell'ordine. Il secondo c'è il nome, il terzo è rimasto con... Col punto di domanda, insomma. Io voglio capire una cosa, tu ti sei mai pentito di aver ucciso questo 20enne romeno, moldavo anzi? Io sono dispiaciuto che abbia perso la vita una persona, sì. Ma spesso mi è stato chiesto se rifarebbe quello che... Sì, io rifarei il fatto di aver difeso me stesso e la famiglia, lo rifarei ancora. non c'è è dubbio. È logico che quando si va a sparare una persona, non è che uno mi dice rifaresti, no, se bravo, arrivo a quel punto bravo. Lì, sapendo come sono andate le cose, mi comporterei in un modo diverso, ma il fatto di difendermi io credo sia... Insomma, credo sia legittimo. No, ma assolutamente, certo, esiste la cosa, la legge, sì, ma la cosa incredibile è che in primo grado è stato condannato, in secondo assolto. C'è qualcosa che non funziona, però. C'è qualcosa che per forza. Non funziona. È per questo che mi batto assieme ad altre vittime. Ci siamo uniti in gruppi e abbiamo formato delle unioni di vittime. Uno di questi è l'UNAVI, ne avrei sentito parlare, sì, certo. E l'altro è l'Osservatorio Nazionale a Sostegno delle Vittime. Sì, ma ragazzi, il punto è molto semplice. Io sono dell'idea, ripeto ancora per l'ennesima volta, eccetera, che dentro la propria abitazione, Parenzo stai fermo, dentro la propria abitazione, dentro il proprio negozio, dentro la proprietà, ognuno può reagire come vuole, anche con i mitra, non è così. Franco, spiegaglielo tu che non è così. Sì, ma io sono d'accordo, ma tu cosa sei? Un conduttore radiofonico, non sei mica un legislatore? Non lo so, purtroppo no. Queste cose le devono capire i nostri legislatori, no? Quelli che fanno le leggi, quelli che... Non è così, glielo vuoi spiegare tu? Glielo spieghi tu dopo 30 secondi, aspetta un attimo che c'è la pubblicità, fermo. La Zanzara. I wanna now, I wanna know, I got to rock, I need to roll, if you can't hang with the speed I go, I'm gonna roll tonight. I wanna now, I wanna know, allora con noi Franco Birolo, il tabaccaio di Civedi Correzzola, provincia di Padova se non sbaglio, no, che provincia è? Venezia, che esatto, Padova. I confini proprio con la provincia di Venezia. Allora, che qualche anno fa, nel 2012, uccise una persona che si era introdotta nella sua tabaccheria, e poi è stato condannato in primo grado a 2 anni e passa e assolto in appello, c'è ancora la Cassazione naturalmente, aveva dovuto, addirittura c'era il risarcimento da dare, che lei non ha mai perso. Alle vittime, sì, 100.000 euro alla sorella e 225 alla madre. Ma ti rendi conto più, no? Più le spese... processuali, ma questi soldi 350.000 euro, no, questi soldi non li hai mai dati, anche perché non ce l'avevi. Per fortuna il giudice non ha predisposto la provvisionale subito nel primo grado. Certo, ma ragazzi, la cosa incredibile è un'altra. Adesso Parenzo dice è tutto previsto nella legge, non bisogna cambiare niente. No, Franco che ha vissuto questa esperienza deve essere risarcito, ad esempio la legge prevede ma lascia perdere il risarcimento. Uno che ha subito un processo di quel tipo per la legittima difesa e poi viene assolto deve essere risarcito anche dei soldi che ha dato all'avvocato e del tempo che ha perso, ovviamente. Però quando c'è un morto, ragazzi miei, adesso lo dico, ma non al signore che è stato poi assolto per fortuna in secondo grado. Quando c'è un morto, inevitabilmente ci deve essere un processo per accertare la dinamica di questa cosa. Questo, ragazzi miei, non ci sarà legge che scardinerà questo principio. Franco dice una cosa che non c'è Franco, non c'è Marco, non c'è Antonio, non c'è Luca, non c'è Cicciolina. Franco dice una cosa molto semplice: che la giustizia oggi favorisce i delinquenti. È vero o no, Franco? Esatto, sta più dalla parte dei delinquenti, con il rito abbreviato, con gli sconti di pena, col sostegno psicologico in carcere, con gli arresti domiciliari, mentre la vittima che subisce il reato, che non ha nessuna colpa perché sta in casa propria, sta dormendo oppure sta lavorando nel proprio negozio, subisce questa aggressione da questi individui, da questi delinquenti, e lo Stato poi si accanisce se ti difendi in casa propria. No, ma il punto è questo, Davide, cioè il punto è che tu non vuoi capire è che questa persona non sei d'accordo, perché se fosse così uno dovrebbe, se spara dentro casa e uccide, qui si sono attaccati evidentemente in primo grado, non so a che cosa, al fatto che forse aveva sparato, qual era la ragione della forse. Guardi, intanto spesso si è detto che questo è stato colpito alle spalle mentre scappava, e non è assolutamente vero, perché è stato colpito su un fianco sul davanti, è uscito sull'altro fianco sulla parte posteriore. Ma perché ti ha condannato allora in primo grado? Perché a suo modo di vedere, se io aspettavo ancora, questi scappavano. E dunque era meglio aspettare? Secondo il giudice io dovevo bloccare, tipo una moviola che uno blocca la scena del crimine nel momento dell'aggressione, dovevo stare immobile lì e aspettare che loro scappassero. Oppure, come mi è stato detto da uno dei periti di parte, non di parte della pubblica accusa, che mi ha detto: ma perché lei non si è chiuso in camera e ha aspettato i carabinieri? Perché? Io ho risposto, ma in quale camera? Quella mia o quella di mia figlia? Perché... Certo, tu avevi paura che succedesse qualcosa alla tua famiglia. Questo no, ma è tutto legittimo, ma infatti poi è stato assolto. Presto, mi è stato detto, lei ha fatto troppo presto a scendere. Ma come ho fatto presto a scendere, io potevano far presto loro a salire. Beh, certo. Erano già introdotti sull'abitazione e io... Cioè, questo è il punto. Sì, ma sono domande normali. Cioè, quello che voglio dire è che sono domande normali in un in una democrazia. Non è che è una tortura cilena. Ma scusa, ha passato 5 anni. Non vorrei passare... Ma infatti dico, deve avere il risarcimento per questi 5 anni. Ma per te è normale passare 5 anni così? Non è normale. Se uno si difende... Ma si difende dentro casa. Uno si è difeso dentro casa. No, però... Scusami, si è difeso dentro casa, c'è un morto, c'è una cosa che va bene, chiama un morto, morto faceva quello, un cadavere, morto, e c'è qualcuno che ha sparato, aspetta, che ha ucciso. Allora, no? Lei pensa che quello là è morto facendo il suo lavoro, cioè è una conseguenza del suo lavoro, cioè, o no? Diciamo sì, lavorava così, gli è stato chiesto, anche il giudice ha chiesto alla madre, ma che lavoro fa suo figlio, fa il predone. Ha detto la madre. Ladro, insomma. Quindi, cioè, il ladro. E sono gli incidenti, un incidente sul lavoro. Cioè, succede che uno fa il ladro e uno ti spara se entri dentro casa. Cioè, può succedere. Sì, anche degli incidenti cosa, sul lavoro si verifica come sono accaduti. Sì, la verifica ci sta. Infatti, le indagini, anche se hanno durato un po' troppo, diciamo, però alla fine hanno portato. Ma lei dorme tranquillo adesso? No. No. Ha paura che possa ritornare qualcuno? Sfiderei chiunque. Ma già una persona comune, anche se non ha un'attività a rischio come la mia, certo, non dorme tranquilla, perché comunque prima di andare a letto va a vedere se ha chiuso bene gli inferriati, se ha messo gli allarmi e tutte quelle cose lì. Dormiamo incarcerati in casa propria. Senta, vuole vendere tutto, vuole cedere la tabaccheria? Ho già messo un cartello sul bancone dove lavoro, che ho su scritto che sto svuotando tutto. E cosa vuole fare adesso? E io mi dedico alla famiglia, a un piccolo pezzo di terra che ha il genitore. E come fa a campare, scusi? Campo con la tranquillità. No, dal punto di vista economico? Dal punto di vista economico... sì, cazzi suoi, naturalmente, per carità. In qualche maniera, sì, mi arrangio in qualche maniera. Per fortuna ho anche la moglie che lavora e... Avrà da parte qualche soldino e basta. Esatto, sì. Ma vivo il fatto di essere più tranquillo, senza il pensiero di andare via. Non andavo neanche via di casa prima, perché a parte l'edicola è l'unica nel paese, devi dare un servizio, quindi sono qui tutte le mattine, tutti i giorni. Ma lei ha paura che tornino anche gli stessi? Ha paura che tornino anche gli stessi di prima? Può capitare, sono liberi questi, tranne quello che purtroppo non c'è più, ma gli altri tre sono liberi. Io non mi pentirei di averlo ammazzato, non mi pentirei assolutamente di averlo ammazzato. Guarda, non è un discorso di pentimento, non è una cosa che si dovrebbe fare. Ma vivrà con l'incubo, capito? Ma che incubo? È venuto dentro casa tua, l'hai ammazzato, punto e basta. La paura di quello che è accaduto e quindi l'adrenalina anche di quella situazione, la paura e l'incubo che ciò possa riaccadere, ma anche il dolore di una pietas cristiana persona che ha ucciso, ma è una persona normale, cioè ha ucciso un ladro, però starà per tutta la vita, avrà non sulla coscienza, perché non è colpa sua, ovviamente avrà il ricordo di questa roba qui. E poverino Mirolo, grazie, arrivederci, grazie. Grazie, ciao. Saluti, ciao, caro, saluti. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La Zanzara. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non posso, hanno cagato figli, li stanno portando qui. Li stanno portando qui. Io questi negri li faccio sparire. Fermi tutti, caro Parenzo, ha chiamato Donato. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao, allora, ciao, tu ciao, sai ciao. Che Tu sai che io vorrei dire un milione di cose, ma non mi ha chiamato. Quello che mi sarà possibile. Dimmi. Io voglio sapere possibile. Chi la scriverà la storia di questi ultimi 20 anni in Italia. Cioè, chi che scriverà la storia? Adesso questo è tirate via il lavoro a Parenzo. Sì. Domani Parenzo deve avere la possibilità che si prenda qualsiasi ufficio di collocamento, qualora esistessero ancora, perché grazie a quel porco e miserabile squadrina che ama Firenze ha creato il Jobs Act. Firenze dovrebbe essere già marcire in galera. Andiamo con calma. Andiamo con calma. Certo. Tirate via il lavoro a Parenzo. Quando a Parenzo non gli date la possibilità di guadagnare più, probabilmente starebbe con la lingua dietro il mio orifizio del mio deretano. Siccome che lui guadagna, sbruffa, quando qualcuno si lamenta, io voglio sapere chi scriverà la storia di questo povero paese massacrato dalla sinistra, dal delinquente Prodi. Perché mi guadagni? Perché l'Italia sarà con me. Non so neanche chi sei. Chi salverà l'Italia dalla Bonino, da D'Alema? Sto parlando dei vecchi parassiti di questo paese. Bonino. Qualche querela gli arriverà. La Bonino si vuole alleare. La Bonino si vuole alleare col PD. Ti segnalo, Donato. Bonino non doveva nemmeno nascere per tutti i bambini che ha ammazzato. Adesso che c'entra? Quella era a favore della persona. Sai che è sconvolgente questa persona. Tu non ti trovi d'accordo con me su questo aspetto. Comunque Bonino e D'Alema, quell'altro porco. Hanno fatto la legge sull'aborto. Ogni giorno muoiono in Italia più o meno 300 bambini vengono uccisi nel grembo delle madri. Io siccome che sono un cristiano, per me l'aborto è un mio diritto. Comunque io voglio sapere chi scriverà la storia in questo quello che sta accadendo in Italia con milioni di italiani che muoiono di fame, mentre gli stranieri, quegli zimbelli con le facce nere, sai quelle facce nere, no? Sì. Che la sinistra sta deportando in Italia. Non è mai accaduto. Sì. Allora in Ruanda, 20 anni fa, si sono ammazzati Uzi e Tutsi, soltanto perché aveva il naso un po' strano. Più di un milione. Qui non è arrivato nulla. Perché qui non è arrivato nulla? Perché non è ancora fatto il disegno per la sostituzione del popolo italiano. Sarebbe così paradossale. Sostituzione del popolo italiano. Noi sappiamo che allora adesso questi porci della sinistra, no? Sì. Questi criminali sono criminali. Si preoccupano del populismo. Il populismo non ha fatto una vittima. Non lo sanno che l'anno prossimo ci saranno le palandrane in Parlamento. Come le palandrane in Parlamento? Ci sarà la famiglia Piccardo in Parlamento. Entreranno per la prima volta gli islamici in Parlamento. Ma secondo voi gli islamici che cazzo vanno a fare in Parlamento? E non lo so, perché che non vanno a fare i buddisti? Ma non lo so. Perché non vogliono entrare i buddisti? Quelli che sono avanti del confucianesimo, di qualsiasi dio, perché non ci vanno i testimoni di Geova? No, ma che ne sa lui? Ci sarà qualcuno sicuro. Ci vanno gli islamici. Gli islamici non devono entrare in Parlamento. Per evitare, voi lo sapete molto bene cosa accadrà a questo paese. Che cosa accadrà? Per evitare che questo paese perché sei stupido, perché piangi, perché sei ignorante. Io non ce l'ho con l'Islam. No. Io ce l'ho soltanto che gli islamici devono mettersi in testa che non possono vivere con i cristiani. Cioè tu vuoi la separazione. È un posseduto, questa mia amica mi ha scritto, è un posseduto, è la definizione migliore. Non avrà fra poco tempo un luogo dove mettersi a riparo. Cosa ha detto quel criminale di Erdogan all'Europa? Cosa ne sai di Erdogan? E tutti i governanti di merda in Italia, in Europa, gente che dovrebbe, credetemi, marcire in galera. Io fossi, non so, il presidente di quel cesso del Parlamento Europeo, un Erdogan a me dica, voi 50 milioni di islamici in Europa? Sì. State attenti. Se mi fate incazzare da questo il costrutto, per voi non ci sarà nessun luogo su questa terra per mettervi a riparo. E voi, cinque donne, e voi, ogni islamico, dovete fare cinque bambini a testa e dovete occupare i posti più ambiti. Ma se l'avesse detto Salvini, quei porci criminali del PD, che sono tutti criminali! Ma dove si riferisce? State attenti a Renzi, italiani! State attenti a Renzi, un criminale! Ma questo qua mi sembra Hannibal Lecter. È presente Hannibal Lecter del Silenzio degli Innocenti? Hannibal Lecter! Forte! Con i coglioni! Cadremo tutti nella miseria! Cadremo tutti nella miseria! Ci saranno gli africani che piangeranno le nostre donne! L'Italia non cresce più! Non cresce più! L'Italia non ci sono più! No, non ci sono più! Piange! Ma cosa piange? C'è l'Africa! C'è l'Islam! C'è l'Africa, le peggiori facce del mondo! C'è lei in circolazione! Questo è un pericolo più grande! I comunisti! Gli stanno i comunisti! Ma non ci sono più neanche i comunisti! D'Alema! Ma D'Alema non c'è più, basta! Fermatelo! In Italia ci vogliono 10 milioni di... 10 milioni di clandestini! Nessuno lo dice. Ma dove l'avete? Si dice quello clandestino. Dove l'avete? L'ha detto D'Alema. Ma non è vero. Respira. Ma no, non ha detto 10 milioni di clandestini. Oggettivamente. Lei vede altre cose. Lei diventa malato. Lei non prende più il farmaco. Il farmaco salva vita. Del 40% di giovani italiani, ai quali abbiamo cancellato il futuro. Abbiamo chi? Scusa, ma lo Jussol. Tu gliel'ha cancellato quando dice che l'Italia vuole gli africani! Tu gliel'ha cancellato quando dice che qui vuoi. Ma perché non arriva l'infermiere, qualcuno? Ma perché? Porco di Fabiano! Che fatto? Ci cagherà in faccia! Pure. Che piscenza! Bella, che immagine delicata! Ma perché? Quando dice che vorrebbe a sud i sindaci africani! Quel criminale! Ma scusa, quel non è criminale! Ma non ho capito. Ma qui Basaglia, la situazione guarda, è più drammatica del solito. Donato, io voglio capire una cosa. Ma ci sarà un medico in zona veramente? Lo Jussoli, come lo vedi? La sinistra pare che lo voglia approvare. Alcuni dicono. L'intervista con una persona normale. Alcuni dicono. Incredibile. Lo tratti come uno normale. Lo devi trattare come una persona malata, poverino. Cioè, dagli una carezza. No, no, no. Criminale! Ma chi è? Dai, criminale! Radio 24! Dovrebbe. Non avrà tutti quelli che lavorano 24 che chiamano quel posto. Dovranno un giorno piangere! Hanno fatto entrare in quella radio un nemico degli italiani! Eccomi italiani, qua, sono io! Quelli che hanno costruito questo paese! Un nemico degli italiani, certo. Ma si sta vendendo all'Africa! Ma lei ha l'asma anche, però! Che cazzo c'entra l'Islam in Italia? Cosa c'entra l'Islam in Italia? Sembra Darth Vader, quello di Guerre Stellari! Quello l'altro papa! Il mastro Bergoglio! Lo sa che le chiese verranno tutte distrutte! Beh, abbiamo detto tutto, mi pare, no? Lo sa che il Vaticano ma stiamo insultato un po' tutti, mi pare, no? 6 milioni! Tu dici che il Papa è uno di quelli degli agenti degli immigrati, insomma, uno di quelli che vuole gli immigrati. Hanno sbagliato la dose stavolta. Però c'è un poveretto. Il Papa, che fatto il Papa? Io rispetto Cristo! Io rispetto il cristianesimo, non il Papa, mi pare un po' eccessivo questo suo giudizio sul Santo Padre. Sei più vicino al Papa tu, Donato, rispetto a Bergoglio, sei più vicino a Cristo tu rispetto a Bergoglio. Certo, ma no, Cristo appena che vedi il Papa lo condannerebbe. Questo non esagerato. Il figlio di Yahweh al Papa, sa chi sei, come lo chiama? Satana! No, non si fa sapere queste cose, scusi. Lei rischia semplicemente che quando sbagliano la dose, questi sono gli effetti. Non puoi toccare, non so io, le lobby gay. Qua non puoi toccare. Perché respira così? Ma ha problemi di farmaci, sai. Scusa. Sì, vabbè. Allora, vabbè, la conclusione di questo discorso è una... che ha detto rispetto a tutto il resto è la cosa anche meno grave, insomma, questa di... No, ma la conclusione è anche una cosa su Di Pietro. Che c'è Di Pietro? Che c'è? Ma dai, forza, anche con Di Pietro, avanti, su, abbiamo detto tutto, Pietro? Avanti. Che succede Di Pietro? Forza. C'è stato come si chiama quel bambinone lì? Chi? Che si è permesso di dire a quel programma della Mirta, di quel programma di Fusaro. Pubblico di sinistra. Quel pubblico mi sembra che gli hanno posizionato le batterie a litio. Dove loro dovrebbero applaudire soltanto le persone di destra. Adesso hanno cambiato un po' andamento, perché mi hanno sentito. E ogni tanto entrano dei saluti verso personaggi o politici di destra. Allora? Di Pietro si mette in testa che lui è complice insieme a Borelli e insieme alla Borrelli. Banda. pur di mani pulite, sì, di aver commesso... Cosa? Morto. È scomparso. Cosa? Allora, come... Oh, finalmente. Che hanno commesso? Cosa è commesso nel 1992? Che è successo? Nel 1992 sai cosa è successo? Che è successo? Ah, non sai cosa è successo nel 1992? Che è successo? Che è successo? Dimmi. Che è successo? Mani pulite venne fatta soltanto per scardinare... Che è successo? Il cinghiale bianco. Grazie. Vabbè, questo dovevano ammazzare Craxi. L'hanno detto in tanti ormai in questi anni. Che vuol dire questo? Allora, che scoperta è? Allora? Ma che è il dossier Moro? Ma che dice? Ho studiato già nell'89. Un colpo di stato, cinghialone, poi è cinghialone. No? Per penalizzare, sì, i loro finanziamenti pubblici. Vabbè, ma questo è milioni e milioni e milioni di dollari che si mettevano in tasca. Sì. Ma chi? Sì. Che Berlinguer, sì, sapeva tutto. Vabbè, Berlinguer, adesso non torniamo a Berlinguer adesso. Non si fosse mai accorto, allora mi pare che abbiamo insultato tutto l'arco costituzionale. Ma le mosche, che dobbiamo fare con le mosche? Cagare delinquente! Che dobbiamo fare con le mosche? Allora Di Pietro non c'è, no. Vabbè, lasciamo perdere Di Pietro, le moschee in Italia, che dobbiamo fare con le moschee? Ma cosa gli chiedi? Le moschee in Italia, bisogna andare vicino a qualsiasi imam. Ma scusa, ma dove cazzo vieni tu? E lui dirà, ma vengo, vedo oggi di schifo, dal Marocco. Ma in Marocco quanti chiesi italiani ci sono? E dice, ma 4, 5, 3, 2, non lo so. Qua, Islam non deve esistere in Italia. Non deve esistere, non deve esistere. È interessante, tesi interessante. Moriremo tutti. Moriremo tutti. Ci sarà una devastazione. Guarda, sono 1.600.000. Cosa sta accadendo in Italia? Ma quanti seguaci hai, secondo te, tu, potenzialmente? Quanti seguaci hai? Potenzialmente ne potrei avere almeno 8-9 milioni. 8-9 milioni. Milioni. Ciao, certo. Donato. Ciao, certo. Ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Mi raccomando, la puntura. Spruzzare acqua dalla vagina adesso è assai in voga. Stanotte voglio che rimani, spalanchi le tue gambe e squirti su Cruciani. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. David, l'uvolo muloni, ovo la banana. Allora ragazzi, andiamo a Salerno da Antonio dopo questo speech, possiamo chiamarlo così, questo speech di Donato contro l'Islam in Italia, contro la sinistra. Hyde Park Kona, come dicono gli inglesi. Hyde questo. Park, cioè, sì. Hyde Park Collions, hai detto? Hyde Park Collions. L'angolo ad Hyde Park, sai, questo bellissimo parco di Londra. Vecchia, sì. C'è uno spazio ancora oggi in voga in cui qualunque personaggio può salire e dire le sue cose. Vabbè, Antonio, donato. Vai. Antonio, vai. Ok. Che è Peppe? Sì, più o meno sono questo. Sono io, questo, sì, Giuseppe. Questo male voglio anche dire questo. Una cosa solo, ma già dice. A me mi piace nel femmine gatto. Allora, fermi tutti, blocchiamo le rotazioni, blocchiamo tutto, blocchiamo le rotazioni. Antonio da Salerno. Si apre un nuovo capitolo. Si apre un nuovo capitolo. Si apre una nuova, come dire, un nuovo filone, un nuovo filone. Titolo, nuovo capitolo. Le femmine grasse, le femmine grasse. Chiatta, Nessi, chiatta. E che vuol dire la differenza tra grasse e chiatte? Allora, perché? Altro maiale. Io una volta ho sentito un grande che ha detto, se vuoi una prova dell'esistenza di Dio, è nella coscia della donna. Eccolo. Va bene, ok. Sì. Allora io sono d'accordo. Insomma, allora, la femmina chiatta deve tenere la coscia almeno un diametro almeno di 30 centimetri. Sul serio? Guarda, vuoi è bella, provaci. No, ho capito, bellissimo. Antonio, ognuno ha le sue perversioni. Diciamo che la femmina grassa è una perversione, signor comune Antonio, a molte persone. Devo dire la verità. Io da piccolo, da giovane, ho avuto un trauma. Cioè io sono uscito con l'unica ragazza del paese che tutti quanti ci volevano uscire, sì, va bene? E lei diceva no a tutti. A me disse sì. Va bene, io sono uscito con questa. Abbiamo fatto il giretto, tutto quanto, ci siamo fermati a dietro cimitero, perché là ci si fermava, sì, dietro il cimitero. Allora... metta la mano in coppa, coscia, trovo il femore. Da quel momento in poi non mi accorsi più di avere, lo posso dire, sì, io sì. Lo dico, l'uccello. Ma... non posso dire, cioè giustamente stiamo per là, non posso dire che cosa, non mi trovo più. Ma quando più ci pensavo, più piccolo si retrasse. Cioè, ho capito benissimo, l'immagine è molto chiara. Tu dici che ti piacciono le donne chiatte, grasse. Proprio chiatte, il termine deve essere quanti chili devono essere queste donne? Allora, Allora, deve essere di taglia minimo. Allora, io parto dalla taglia 48 alla taglia 65. Addirittura. Io va bene tutto. Dalla 48 alla 65. Ma perché ci dovrebbe interessare? Fermi tutti, fermi tutti. Resta lì, Antonio, resta lì. Abbiamo in collegamento dalla Sicilia, se non sbaglio, Vittorione Sgarbi. Buonasera. Eccolo qua. Grandissimo, eccolo, si sente bene, sono contento. Sono contento. Dove che sei, si senta caro bene. Vittorio, dove sei? Beh, stavo con Berlusconi. Villa Igea con Berlusconi. Stava con Berlusconi. Allora. Salutamelo molto, il presidente, sì, che ho visto. Che... Sì, hanno un feeling. Hanno un feeling, no, adesso, feeling, caro. No, sì, sì, hanno un feeling. Le cose cambiano nella vita, Vittorio. Adesso c'è il feeling tra Berlusconi e Parenzo. No, nessun feeling. L'ho intervistato con piacere, è stato simpatico. È stato, quindi, benissimo. Sì, mi ha detto è stato bravo Parenzo. Lo presentavo a Mediaset, se non ci sei già, no? Dove sei tu? No, alla 7, alla 7. Ha detto io, così, lo porterei a Mediaset. Lo porterei a Mediaset. Molto bene, questa è una notizia importante. La trasferiremo anche al dottor Polverini. Questo è tutto lo Stato Maggiore. Vabbè, non ce ne frega niente, a meno la Polverini non ce ne frega niente. La cosa, ottima, la cosa fondamentale è che ha detto Berlusconi, ha detto lo porterei a Mediaset. Dunque, trasferiamo questa notizia al dottor Cairo. Al dottor Cairo. Tranquillo, dottor Cairo, sto alla 7. Allora, Vittorio, io ti voglio fare sentire velocemente. Ti voglio fare sentire, e tu ti incazzerai sicuramente come una beva. Mi crei sempre dei casini. No, ti incazzerai. Perché il signor Fico, sai chi è Fico dei Five Stars? Sai chi è? No. Allora, Fico è quello del presidente 5 Stelle, sì, 5 Stelle, della vigilanza della RAI, sì, signor Fico. Rai, sì, ti sì, voglio sì, fare sentire la frase che ha detto su Berlusconi. Sì, pazzesco. La frase che ha detto su Berlusconi. Era meglio se la sentiva lui. No, no, vabbè, ho capito, ma la senti tu e commenti a modo tuo questa frase di un signore autorevole dei 5 Stelle. Senti, senti. Autorevole. Senti. Io dico che Berlusconi è stata una persona che ha ospitato summit mafiosi nella sua villa di Arcore. È una persona dove il suo braccio destro dell'Utri è condannato a 7 anni per mafia, è una persona che dal 74 al 94 ha stretto patti con la mafia finanziando la mafia, e allora queste persone devono essere cacciate dal nostro paese e devono andare al massimo in galera. Hai capito, Vittorio? Beh, è la stessa cosa che ha scritto Travaglio oggi. Peccato che Travaglio, come tu hai visto, sia talmente poco impreciso sui fatti che aveva intervistato sulla materia di impresentabili e mafiosi, Calogero Mannino, sì, ma era un altro Mannino, se sono sbagliato, ho intervistato Nino Mannino del PD, sì, come sì, se fosse Calogero, è vero, è vero. E saper dire quello che possono fare. Sì. Quanto a queste affermazioni, Fico, io non so poi se qualcuno procederà contro di lui, confonde la mafia con l'odore della mafia, che è una cosa diversa, basta che non ha mai letto Sciascia, cioè a dire, quando Mangano viene preso a Arcore nel 74 è un uomo perfettamente libero, è diventato mafioso dopo, certo, che è mandato via per questioni loro nel 75, sì, determina in Busi un'altra specie di Fico, una battuta impressionante, dice ma questa Veronica altro che poteva cacciarlo via, mi sei detto lì, Veronica ha sposato Berlusconi nell'81, cioè, è gente che parla così, le date non le conosce, come puoi cacciare uno dell'81 se quello è andato via nel 75? Sì, allora, ma al di là di questo dice che Berlusconi dovrebbe essere ospitato, non era un mafioso. Cioè, era una persona che poi è stata indicata, cioè non c'è un mafioso reale. Dell'Utri, esattamente come Contrada, è indicato come responsabile di qualcosa di indistinto fino al 92, quindi anche il suo processo. Però adesso andando, non vogliamo andare. Questo qua parla senza conoscere i fatti, chiamando mafia l'odore di mafia, che va benissimo, ma è una cosa diversa. Senti, io non ho capito una cosa, ma tu come li consideri questi qua? Cioè, Fico? No, li considero dei deficienti, dei disperati, della gente che non sa quello che dice. Cioè, anche per attaccare, si può attaccare, deve essere documentato. Se tu fai il fatto, diceva Fico, verum ipsum factum, e intervisti la persona sbagliata, vuol dire che il fatto non c'è, sei un coglione. Se, scusami un attimo. Parla di date, cioè nessuno è stato ospitato da Berlusconi in stato di mafioso. Sì, allora potrebbe dire che anche Dell'Utri era da lui... Ma quando era da lui non era in carcere e non era ancora mafioso. Allora, cioè, voglio dire, ma c'è questa inchiesta? Io adesso tu so che cosa pensi su questa cosa qua. Di Matteo, che è stato uno di quelli che ha promosso questa inchiesta della Procura di Firenze, contro Berlusconi di nuovo come mandante delle stragi. Ecco, Vittorio, mi aspetto vabbè, da te. Ma aspetto... questa è pura retorica, perché Graviano, chiamato a deporre, non ha deposto. Quindi e come la consideri questa cosa? Una manovra politica? No, dovrebbero cacciare Di Matteo? Che dovrebbero fare? Dovrebbero cacciare Di Matteo e lo cacceremo appena siamo al governo, come è giusto che lui sappia, perché un magistrato che viene indicato come titolare del depistaggio sulla morte di Borsellino, dalla figlia di Borsellino, deve solo rispondere di questo. La figlia di Borsellino, come tu ricorderai, Fiammetta, ha detto 25 anni di inchieste fasulle senza arrivare ai responsabili. Ma che vuol dire lo cacceremo? Quando, che vuol dire lo cacceremo? Uno che spende i soldi miei per un'inchiesta sbagliata, denunciato dalla figlia. Quello ci penserà di il CSM, però non è il governo. Certo, ma deve anche rispondere al CSM. Ma che vuol dire lo cacceremo? Cioè, quando saremo al governo lo cacceremo? Che vuol dire? Scusami. Che se seguissero me, gente che fa errori di questo genere andrebbe cacciato. Lo Stato appiccicato alla trattativa è stato mafia. Che basta chiedere a Fiandaca, a chiunque, che non è mai esistita, è uno che non può fare il magistrato. Allora io però, Vittorio, ti dico una cosa. Nei giorni scorsi ho detto, se ti fossi presentato tu in Sicilia, io avrei votato te senza dubbio. Invece, purtroppo, hai fatto un'altra scelta. Allora io dico oggi, aspetta, sì, lo so benissimo qual è la cosa. L'abbiamo già detto. Ma Fico, ti pare che io faccio vincere 5 Va bene, meglio di Musumeci, meglio di coso, meglio di Musumeci. Non conoscete Musumeci. Ma no, ma è meglio. Adesso sono io la storia della cultura. E quindi non c'è nessun Vittorio, problema. Vittorio, hanno spolpato questi qua, centrodestra e centrosinistra, hanno saccheggiato la Sicilia per anni. No, no, guarda, su questo ti sbagli. Musumeci è una brava persona ed è considerato tale anche da sinistra. Dai 5 Stelle non lo so, ma pur vedendo lui. Votato l'antimafia. Sì, l'antimafia in Sicilia porta il nome del presidente Musumeci. Eletto con i voti di 5 Sì, però Vittorio, non ci si può fidare delle stesse persone che hanno per anni governato la Sicilia, hanno distrutto la Sicilia. Allora, lui non ha governato la Sicilia, ha governato benissimo il suo territorio, Musumeci. Ma non è lui, no, punto. Lui non è lui, sono i partiti che ci sono dietro, su. Ho capito, non è il problema. La Sicilia è ingovernabile, la Sicilia non si può governare. Ma non la governerebbero i 5 Stelle. Ma non lo so, ma almeno diamogli una possibilità a qualcuno. Se ti fossi presentato tu, un'altra cosa, ma tu no. No, ma io lo so bene. Sei una piccola pedina. Ma scusami, Non avrei vinto. Ma tu sei una piccola pedina. Ma si può affidare il paese a un signore, una regione a un signore come Cancelleri, che ha detto che esiste l'abusivismo di necessità? L'ha detto in onda. Abusivismo di necessità, cioè gente che parla e rompe i coglioni sulla legalità un giorno sì e l'altro pure. Io posso anche essere d'accordo, che poi però dice abusivismo di necessità. Ma hanno fatto di tutto gli altri, è una cosa vergognosa. Ma hanno fatto, quelle sono parole. Ma quella, quale necessità? La necessità di andare a fare in culo, cioè l'unica necessità che esiste. Ma siete vergognosi. Aspetta, che c'è un grillino siciliano che ci ha chiamato. Parenzo, la cosa vergognosa sei tu e sgarbi pure. La vergogna dell'Italia siete tu e sgarbi. Abusivismo di necessità, vergognati. Senti che livello. Allora, ignorante! Il livello, ignorante. Sei minchia, coscolare minchia, con questa banana, pezzo di cretino e stronzo. Critico tante delle mie palle. Critico tante dei miei coglioni. Aspetta! Ignorante. Hai lasciato culo per fare il critico d'arte delle mie palle. Testa di cazzo, capra a cui cato rompo il culo. No, calma. Cucasso sì. Ti devi sciacquare la bocca prima di parlare di Grillo. Sgarbi. Sgarbi, sì, un pezzo mio è da Sgarbi. Una cosa è mia è da sì. Ma perché? Aspetta. La vergogna dell'Italia. Perché sono la vergogna? Ma ci devo andare a Sgarbi. Ma Cucasso è Sgarbi. Avresti vinto. Rivoluzione siciliana hai fatto 5 anni fa, il partito del mio cazzo, rivoluzione siciliana, cazzo che non hai, lo devi mettere un voto per restituire il cazzo che minchia. Aspetta, aspetta, fermi. Allora, ma chi è, che come si chiama questo qua? Come ti chiami tu? Come ti chiami tu che hai chiamato? Che cosa c'è? Come ti chiami tu? Come ti chiami tu? Come ti chiami? Non te ne fotto un cazzo. No, come non me ne fotte? Come ti chiami? A te chi minchia te ne fotti? Di nome, nome, sempre si dice nome. Giovanni, Francesco, come ti chiami? Non te ne fotto un cazzo. Ma perché attacchi così Sgarbi? Cosa ha fatto? Che è mafioso? Grillino 5 Stelle, benissimo. Grillino siciliano 5 Stelle. Che cosa dici a Sgarbi che non ha mai avuto una condanna per mafia? Perché lo attacchi così? No, tu hai detto che Sgarbi gli davi il voto, lui vinceva in Sicilia. No, non tutto so, vinceva, convinto. Non credo. Lui ha fatto un partito di due soldi 5 anni fa. Rivoluzione ma chi siciliana. Se ne frega di 5 anni fa? Salemi, se n'è andata a Salemi, che cazzo ha fatto a Salemi? Vabbè, ma quello che cosa c'entra, dai, ma non ho capito. Doveva adesso che gli Salemi. Ma che gli riproveri non di... sa fare un cazzo, per me è un incompetente che sa solo urlare. Mi vabbè. Dice capra a me, ma come in giega mi dice capra a me? Ma non ho capito, ma lascia perdere, che cosa gli rimproveri di andare con Musumeci adesso? Ma lui, ignorante, culturistica sugli ignoranti. No, devi stare calmo e parlare. No, non mi devi rompere i coglioni. No, allora fermo. Parenzo, Parenzo, che perché cosa? Lo attacchi? Parenzo, perché sta con... lo sponsor a centrodestra qua in Sicilia che vota Musumeci, ma perché non si è toncati in mai tanta faccia? Ma perché Parenzo? Lascia perdere, perché attacchi Musumeci? Perché attacchi Musumeci? Perché attacchi Musumeci? Ma Musumeci, la gente impresentabile che c'ha in lista. Ah, gli impresentabili, gli impresentabili. Quella a Catania, oh, finalmente siamo arrivati alla galera, ora vuole intraprendere la carriera da sacerdote. Ma dove dobbiamo arrivare? È al comizio che ci faceva battere di mano, e qua insomma ci si cioè, secondo te sono impresentabili? Ora è 5 novembre, no, tu a sentare a mia. Ora è 5 novembre, vediamo quello che c'è. E ha finito di parlare di telegiornale che sparano minchiato tutta in nata. Vittorio, l'abusivismo di necessità. Per che cos'è l'abusivismo di necessità? Ma io tu ci vuoi queste minchie necessità. E che cos'è l'abusivismo di necessità? Spiegamelo, legalitario, spiegamelo. Perché il cuculo. E che cos'è l'abusivismo di necessità? Rispondi invece. Fermala, Vittorio, che dici? Tu volevi il governo questi, vedi come avete ragione. Lo so, purtroppo. Questo non sa nulla, non sa cos'è Noto, non sa cos'è Piazza Armerina, non sa cos'è capitato a Salemi. Dica Parenzo cosa capitava a Salemi, a questo ignorante imbecille che sa soltanto urlare delle stronzate. Io ho fatto per la Sicilia più di tutti i politici siciliani, infinitamente di più. Non ha fatto un cazzo e sta a parlare. Questi sono i grillini, come Fico. Dicono delle cantanate. Cancelleri vincerà, rassegnati, testa di cazzo, rassegnati. Testa di cazzo rassegnati, sei tu. Rassegnati, abbiamo posto, facciamo qua. Da rassegnarti, devi rassegnare. Siamo impermeabili a tutte le cazzate che ci dicono in TV. Siamo impermeabili, vinceremo. O grillino di merda, testa di cazzo. Rassegnati, Garbi, Capra, questa minchia. Faccia di merda. Ma scusa, grillino, allora, chiudete un attimo, chiudete il grillino un attimo, perché io non capisco perché deve dare la testa di cazzo alla gente. Non capisco perché. Stavi dicendo una cosa su Cancelleri, fai una critica politica, perché gli dai della testa di cazzo? Grillino, grillino della minchia, vieni fuori, vieni fuori. Dov'è? Dov'è? Ma devi metterlo nel buco, devi metterlo nel buco del culo, poi dai da sull'altra parte. No, roba come perdono. Ma una roba incredibile, guarda. Sei l'emblema dei 5 Stelle. Che c'è? Che cosa c'è? Prima dici chiudere il grillino, che c'è? No, che ma c'è? La cosa incredibile. Che la c'è? Cosa, guarda, che cosa c'è? Ma tu sei cosa un odiatore, sei un odiatore, questo è il punto. Sono un odiatore. Sì, sei un odiatore, come come l'assessore. Come l'assessore che ha detto che bisogna bruciare quello. Ma perché le persone? Ma perché c'è una volta che ha fatto una critica contro un altro partito? Ma dai, ti devi vergognare, dato la testa di cazzo a Sgarbi, così cioè, dai liberamente. Ma, dai. Ma fammi capire, lui quante volte dà la testa di cazzo alle ma persone? Che perché non glielo posso dare io a lui? Uno vale uno, dai sei minchia. Io scrivo dei sei minchia. Non vali uno, non vali uno. Un vale, tu non sei vale un cazzo, tu non mi rappresenti nessuno. Ne avessi messo in televisione, io mi cantare il video del Skype. Cazzo sei tu? Stare zitto il grillino, zitto il grillino, zitto il grillino. Oh. Ciao Vittorio, scusami, ciao Vittorio, ciao. Conversazione idiota. Sì, ciao. Pompinaro. Ciao. Conversazione, beh, sono... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Oracle Cloud Show. Le storie di successo Oracle danno spettacolo a Milano giovedì 9 novembre. La Zanzara. David! Presidente! Uè, nano di merda! Oh, porco maiale, ce l'ho con te oggi! Ce l'ho con te proprio, Diego! Disgraziato, Diego! Tanto ciao! Naturalmente! This is the opening night for you. Allora ragazzi, direi di tornare a Salerno da Antonio dopo questo scontro molto vibrante, caro Davide. Come possiamo definirlo questo scontro? Beh, molto feroce, al calor bianco. Sì, molto feroce, definirlo... tra il signor Vittorio Sgarbi, che sostanzialmente potrebbe diventare nuovo assessore alla cultura in Sicilia se dovesse vincere il dottor Musumeci. Poi bisogna vedere, naturalmente. Pensa se non lo fanno assessore, Parenzo, se vince Musumeci. Beh, cosa dice? Cosa sarebbe, dice Vittorione? Sarebbe un tradire le promesse fatte, insomma, quindi sì. No, ma dimmi che cosa come potrebbe esplodere. Non oso immaginare, diciamo, lo spartito quale potrebbe essere. Non oso immaginare. Allora, quell'ascoltatore è tifoso invece dei Five Stars. Tifoso, mi pare un fanatico quello tifoso. Allora, Antonio da Salerno ci parlava invece di un argomento molto interessante, David, delle femmine chiatte. Le femmine chiatte. Ah, bella così, proprio così. Proprio così, dice, le femmine chiatte. Allora, chiatte. Hai detto prima che ti piace addirittura una donna che ha una taglia che va dalla 48 alla 65, esatto. Alla 65, esatto. Cioè, però sì. 65 è assai, è assai. Cioè, basta che te la panzi, la pancia no. Basta che la pancia non ci sta. Ma come cioè, fa, non aveva pancia, bella, scusa? Bella piatta, così, si sta, cioè, piatta proprio no, oddio, un po' che pancia ci sta. Però scusa, voglio Antonio, dire... Scusami, abbi pazienza, se uno, donna, ha la taglia, 50-52 una donna, la pancia ce l'ha, a meno che non sia un gigante, cioè la pancia ce l'ha comunque, amico mio. Vabbè, ma la panzella bella morbida che è bella anche da toccare, insomma, perché ecco, no? Caro Parenzo, questa perché dovremmo essere interessati ai gusti sessuali di questo signore? La cosa più bella di una donna è toccarla. Cioè, sì. La femmina anche che Parenzo sì, tocca troppo tocca, qualche cosa. Scheletro. Sì, ma hai ragione, sì, Antonio. Sto toccando ma il non è dai, su, e non devi farlo. Ma non lo devi fare. Distorcere il suono, Antonio. Dimmi, dai. Ecco qua. Allora, prima di tutto, ecco, voglio dirvi una cosa. Io, che non sono una nullità, sono zero. Sì. Così sta bene. Vorrei essere governato da Sgarbi. Ah. Perché mi piace, io quando lo ascolto proprio godo. Godo, cioè, se io tengo la femmina a fianco, preferisco metterla un attimo da parte e dico a Giuseppe Andrea Sgarbi. Perché Vittorio Sgarbi è una persona eccezionale, colto, cioè lui dovrebbe governare l'Italia. Sì, ma bene, a te ti piacciono, dice... ti piacciono le culone? Allora, ti piacciono le culone? Assai, io sono d'accordo pure con, come si chiama, quello di ieri sera, aiutatemi perché non... E chi è non ieri sera? Chi c'è? Ieri sera... Corona, signor Corona. Corona, bravo, io sono d'accordissimo con lui, cioè perché... Sì, perché... però quello a Corona non piacciono, mi sa le grasse, Chiatte no, però lui già il fatto che gli piace il culo è ma quello una non cosa... mi pare una cosa così complicata. Sul culo delle donne sono stati scritti dei trattati, ma quando è bello, sì, da secoli però, amico mio. Ma c'è una piccola differenza tra il culo, le culone, le chiatte, le persone che hanno un bel culo, cioè, sì, è un, beh, sì. Guarda, allora Rubens ci piaceva nel film di chiatte. Renoir ci piacevano i femmini chiatte, Modero ci piacevano i femmini chiatte, io che sono un povero pittore, pure io mi piacciono pure a me i femmini. Allora ci deve essere un motivo per cui a noi artisti ci piacciono i femmini chiatte. Tu fai il pittore? Sì, io dipingo. Cioè, io sto in pensione adesso, ma e quindi per me era prima un divertimento, ma lo faccio perché mi piace anche arrotondare, comunque insomma lo faccio. Dipinge, Antonio, mi piace moltissimo. E infatti sto dipingendo questa. Solo femmine chiatte. Solo, però non è che fanno schifo, sono donne belle in for- cioè, ecco. Ho capito. Maurizio da Forlì, ho capito. Ciao Anto, Maurizio Forlì. Grazie, ciao. Dimmi. Salve, io sono Maurizio da Forlì e sono l'autore dell'inno del Rinascimento di Vittorio Sgarbi che avete sentito poco fa. Cioè no, siamo giunti ad avere un inno. Come fa questo inno, scusa, spiega. Come fa? Sì. Ti amo Italia, ti amo perché nessuno al mondo è come te. Ti amo Italia, ti amo perché nessuno al mondo è come te. Ma sei una specie di tenore, scusa Maurizio, poi, a parte che ti sei staccato un attimo dal telefono. Però bravo, bisogna ammettere. Sì, ma hanno capito, sei un tenore, che sei? Io sono, sì, sono il cantante ufficiale del movimento. Questo l'ho capito, ma fai anche il tenore. Sei un tenore? Sono un tenore, certo. Sei un tenore. Dunque, abbiamo, signori, Maurizio da Forlì, che è praticamente il frontman, uno dei frontman del Movimento Rinascimento di Vittorio Sgarbi, e ha anche composto da tenore l'inno, come avete sentito, del nuovo movimento. Rinascita Italia. Sì, in cui c'è anche il professor Tremonti, se non sbaglio, in questo partito. Assolutamente, sì. E poi, come dire, l'incontro tra Tremonti e Sgarbi è tutto da verificare, naturalmente. No, Maurizio? È già stato fatto. L'incontro, come dire, come mai c'è stato questo incontro? Questo sarà oggetto di ulteriori, come dire, inchieste. Ecco, Maurizio, cosa volevi dire però? Hai chiamato per io questo? Io volevo credo. Dire, proprio in questo Rinascimento per Italia passa anche dalla sicurezza. Proprio ieri sera la mia figlia gli è stata svaligiata la casa. Dalle 18, lei è tornata a casa alle 19, quindi sono alla notte così, con tre bambini piccoli, si è ritrovata la casa svaligiata, la porta aperta. Sì. se fosse arrivata 10 minuti prima, sì, i vicini di casa gli hanno detto che è partita questa macchina, sì, naturalmente erano i ladri. Vabbè, allora? Si sarebbe ritrovata da sola con 3 bambini, dunque? Con 2 o 3 ladri. Sì. Dunque, cosa potrebbe essere successo? Cosa poteva succedere? Non lo so, che, dimmelo tu, cosa poteva succedere? Poteva succedere che ci sarebbero stati dei problemi. A questo punto qui, Parenzo, con chi stava? Con chi sta? Ma non lo so, non sta mai con un ladro, Parenzo, non starà mai con un ladro, Parenzo. Quindi, è ovvio, se che domanda succede è? Che al posto di magari di mia figlia ci fossi stato io con una massa ferrata o qualcosa. Dovevi fare quello che ti sentivi di fare, Maurizio. Ecco. Quello che ti sentivi di fare. Se in quel momento dentro la tua abitazione, dentro il tuo negozio, ti veniva di sferrare questa mazza ferrata addosso a uno di questi, lo dovevi fare. Esatto. E non ci vuole, basta una piccolissima inchiesta molto veloce. Beh, per dire dove ha commesso, spesso questo atto, non è così. Dove ha commesso questo atto? Dove l'ha commesso? Dentro la sua abitazione? Benissimo, chiuso tutto, velocemente. Chiuso tutto, velocemente, senza bisogno di indagini, cose, ha sparato di lato, ha sparato di spalle. Il diritto di Singapore. Ma chi se ne frega se ha sparato di spalle? La nota democrazia occidentale voluta di Singapore. A Singapore io ho il diritto di spararti in fronte. A Singapore, sì, il nuovo modello, cioè, di adesso diritto, questo bisogna Singapore. Vedere a Singapore lo cosa stato di diritto di Singapore. No, ma non è detto che non possano non è detto che non ci possano essere cose positive anche a Singapore, chi te l'ha detto? Vabbè, ciao amico mio, ciao. Senti, il camion. Andiamo con Tipi da Zanzara, ragazzi. Tipi da Zanzara. Tipi da Zanzara. A grande richiesta, un napoletano a Dortmund. Carlo da Caserta, la nostra grande inchiesta live su quello che accadde nel 1975 in quel di Dortmund tra gli immigrati italiani. C'era di mezzo anche un uomo di colore. Quando sono stato in Germania, ho avuto un paio di amici, diciamo, che poi stavo un professore che insegnava i bambini italiani e veniva pagato dal consolato italiano. Che c'entra adesso? E ci ha portato in una discoteca a quell'epoca e ci stava anche un ragazzo di colore. E c'era un ragazzo di colore. Alla sera ci siamo ritirati nell'appartamento del professore, perché il professore era l'unico che aveva un appartamento più grande. E allora? Ci siamo ritirati e ci siamo imboscati ognuno con queste ragazze. Avete capito bene, i protagonisti di questa vicenda sono un professore, un ragazzo di colore, 2 immigrati e 4 ragazze probabilmente tedesche. Subito dopo, ma nemmeno una mezz'oretta, questa ragazza che stava con il ragazzo di colore venne nella stanza dove stavo io con l'altra ragazza tedesca. E mi chiese, io gli chiese in tedesco, perché si dice, cioè in tedesco gli dice, ma siste, cos'è, no? E lei dice, il ragazzo dorme, schlafen. Cioè? Allora in quel momento io non lo fece per me stesso, lo fece per l'Italia. Italiani! Fermi tutti, cosa accadde dunque? Secondo questa prima ricostruzione, caro Parenzo, queste 4 persone si accoppiano con queste 4 donne tedesche. Una di queste si mette col nero, evidentemente, perché erano 4, dunque 4 e 4 in coppia, separate, stanze separate. Il nero si addormenta e lui dice, riceve questa ragazza, ma non lo fa perché ha voglia, ma per l'onore dell'Italia. Mi sembra di aver capito questo, andiamo avanti. Cioè, non ho capito bene. Nel senso in cui la fece accomodare nel letto assieme all'altra ragazza. Sì. E in quel momento non lo fece con il mio piacere, lo fece per l'Italia, perché il ragazzo di colore si era addormentato. Allora io lo fece come orgoglio dell'italianità. Adesso è tutto più chiaro. Allora, ricostruiamo questa vicenda. Tu eri in Germania, emigrato in Germania. A un certo punto ti trovi, non lo so in che posto, in una discoteca, dove c'è una ragazza di colore. Anche a Dortmund. Sì. Una ragazza tedesca c'era, anche una anche di colore. Qual era il punto? No, erano 4 ragazze tedesche, eravamo 4 ragazzi di noi. E in mezzo a questi ragazzi amici, così, che era amico del professore. Che grande, era un ragazzo di colori. Siamo tutti quanti a casa di questo professore. Siete andati tutti a casa di un professore. A casa del professore. Qualcuno si è messo a scopare, evidentemente, o no? Ognuno si è imboscato con queste ragazze che avevamo conosciuto. La storia continua. A un certo punto uno si è addormentato, un italiano, mi sembra di capire, no? No, il nero, il ragazzo di colore. Ma è italiano il ragazzo di colore? Era italiano? No, era straniero, no? A quel punto che succede a Dortmund nel 1974? È importante, Parenzo. La ragazza, nella stanza dove stavo io. Cioè la ragazza, dici? La ragazza. La ragazza. Ma tu hai già scoperto la ragazza che si era addormentata, giustamente venne da me. Sì, però, cioè, non lo so perché è scesa dalla mia stanza, non lo so. Ma questo non si sa, questo è importante capirlo, adesso bisognerà fare un'inchiesta. Però scusa Carlo, è importante questa cosa qua. Tu avevi già scopato con altra, però. Stavo già scopando con quella lì. La conclusione è sempre un inno all'Italia, caro David. Questa è la cosa importante, fondamentale di questa inchiesta. Non ho capito, pur riascoltandola, non ho capito neanch'io bene la dinamica. No, io ho capito della tutto, cosa. Finalmente ho capito tutto. In quel momento approfittò, ma non per me stesso, non avevo in quanto italiano, in quanto italiano, diciamo, l'hai fatto per l'italianità. Per ben dire, l'ho fatto veramente, quanto è vero dire, l'ho fatto per l'Italia. Per l'Italia, italiani! Italiani! Mi devi credere! Ti credo, italiani! Dopo tanti anni parlo ancora di sud, senza sud, indipendenti, cioè, ma si rendono conto? Ma no, ma perché, per carità? Ciao Carlo, ma ciao! Per carità, ciao. Che ci vogliamo un po' più bene! Ciao Carlo, che ciao! Che ci scopasse di più! Ciao Carlo, viva l'Italia! Italiani! Tipi da Zanzara. E per concludere, Enzo, dalla provincia di Agrigento, regalaci un sogno in conclusione, Enzo. Salve a tutti, salve. Dimmi, Cugiani. Veloce, vai. Allora, io stavo parlando in merito... Parlando, comunque dimmi. No, stavo parlando con me stesso, sentendo l'affermazione di Sgarbi. Cosa? Allora, se Sgarbi conosce bene la Sicilia Dobbiamo chiudere, vai. Allora? È un falso. Lui è un falso. Perché è un falso? Lui è un falso. Perché non conosce i siciliani. Ha detto sempre che ama la Sicilia. Ma che cazzo ne sai tu che non ama la Sicilia? Scusa, che ne sai che non conosce la Sicilia? Che ne sai tu? Che ti senti più siciliano di lui solamente perché c'hai sulla carta d'identità della provincia di Agrigento? Non so che cazzo di paese. No, guarda, sulla carta d'identità c'ho io che sono nato in Francia. E vabbè, ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, perché... L'hai detto tu e non ho capito perché è un falso. Scusa, perché è un falso? Allora, il falso è perché lui non può dire che Cancellieri non va e non è buono per la Vabbè, ma quello fa il tifo per Musumeci, lascia di fare il tifo per Musumeci, diventerà assessore. Allora ascolta, la svolta nostra non deve mai risalire, non dobbiamo mai crescere noi, no? Ma che ne so, ma allora, perché crescere deve essere per forza con qualcuno e gli altri invece ti fanno andare indietro. Fermi tutti, italiani, a domani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.